Rimasero insieme 2 giorni prima che lui partisse. Lei lo aiutò a scavare il resto delle patate e delle rape, lui approfondì il pozzo nella palude e vi pose sopra un vericello in modo che lei potesse attingere un secchio pieno di acqua limpida. La seconda sera passarono dagli Svensson e tornarono lentamente a casa insieme al chiaro di luna con il bambino addormentato sulla sua spalla. Il mattino seguente, con il legname e i telai delle finestre sul carro, si diresse verso il sito della città. Era crudele che Caroline non potesse andare con lui, ma non osava portare il bambino così lontano con il caldo. Quella sera Charles tornò trionfante con farina, sale, melassa, cherosene e persino un pezzo di maiale salato e 2 libbre di tè. Aveva barattato il legname e le finestre con queste provviste sufficienti per provvedere a Caroline fino al suo ritorno in autunno. E Caroline, non lo indovineresti mai, disse sorridendo. Loftus voleva prendersi i cavalli. Oh, Charles, aspetta di sentire. Proprio mentre stavo uscendo dalla città è arrivato lo sceriffo con il giornale. Ha detto che odiava come il diavolo prendere i cavalli di un uomo, ma che avrebbe dovuto farlo se non avessi saldato il conto con Loftus. Io gli ho detto come stanno le cose e lo sceriffo è una brava persona. Ha dovuto prendere i cavalli, ha detto, ma il vincolo non si applicava al mio carico e non poteva permettermi di scaricarlo in strada perché era contro l'ordinanza comunale. Disse che avrei fatto meglio a trasportare quelle provviste ovunque fossero dirette e a tornare con i cavalli. Ha fatto l'occhiolino quando l'ha detto. Pensa di darci la possibilità di andarcene da questo paese tra 2 giorni. Domani mattina sarà un uomo sorpreso. E anche Loftus. Perché Caroline pensa, Loftus deve prendere i cavalli e non può liberarsene come regalo, visto il prezzo del mangime. Li nutrirà fino all'autunno e quando tornerò dovrà far fronte al loro nutrimento per tutto l'inverno. Ma non vede l'ora di toglierseli di torno. Scommetto che glieli restituirò per il costo del mangime che gli ha dato. Che ne dici di questo scherzo? L'abbracciò esultante e risero insieme. Risero molto quella sera, cercando di dimenticare che Charles sarebbe partito domani. Quando ne parlavano, parlavano con allegria. Charles viaggiava velocemente. Quando raggiungeva i treni della ferrovia si faceva strada su di essi. Si diceva che i raccolti fossero buoni a Est. Avrebbe trovato facilmente lavoro durante il raccolto. In autunno sarebbe tornato con molti soldi. Avrebbero trascorso un altro accogliente inverno insieme e poi ci sarebbe stata di nuovo la primavera, un nuovo anno, un nuovo raccolto. Rimasero allegri fino alla fine. I loro sorrisi tremavano, ma essi sorridevano. Charles si voltò per sventolare il suo cappello dall'altura oltre la palude. Caroline tenne in braccio il bambino e gli sventolò il pugnetto. Ascoltò finché il silenzio non si chiuse dietro il carro. Giorno dopo giorno il sole sorgeva e declinava nel cielo di rame ardente. Vortici di polvere apparivano, si muovevano e scomparivano. Ci furono tramonti dai colori violenti, strisce di temporale nero porpora si muovevano al di sopra della prateria, crepitando e rimbombando e lasciando cadere grigie cortine di pioggia. Dove erano passati, l'inespugnabile zolla di terra aveva sollevato i suoi fili verdi. L'erba della palude era cresciuta a dismisura e ondeggiava contro le gonne di Caroline quando andava al pozzo, ma per Caroline il tempo stesso si fermò, in attesa. Di notte sognava sogni orribili, non aveva detto a Charles quanto temesse i treni. Quando dormiva vedeva quelle cose mostruose, disumane, di vapore e ferro, che arrivavano rapidamente, rombando, ansimando, fissando con i loro fari come occhi. Cose che sembravano vive, ma non lo erano. Vide Chas che si lanciava in avanti, fiducioso, coraggioso per lei e per il bambino, e vide i treni che lo uccidevano. Di giorno non pensava ai treni, lei aspettava. Aveva 3 rocchetti di filo e i suoi piccoli ferri da maglia in acciaio. Quando tutto nella capanna veniva lavato, ripulito, rattoppato, lucidato e lei non aveva trovato altro da fare, lavorava a maglia. Riannodava tutto il filo, disfaceva il merletto per poterlo sferruzzare di nuovo. Spesso la signora Svensson era con lei e parlavano, ma Caroline aspettava. Il povero piccolo Charles John stava tagliando i denti, le sue gengive erano gonfie e calde e nulla poteva aiutarlo. Si lamentava, girandosi pietosamente da una parte all'altra fino a piangere perché non trovava scampo al fastidio. Caroline cercò tra gli uomini a cavallo nella prateria. Tutte le baracche, tranne quella degli Svensson, erano state abbandonate per l'arrivo delle cavallette e pochi a cavallo passavano di lì. Quando ne vide uno che avanzava verso sud, lo chiamò, gridò e corse. Ansimando, con una mano contro il fianco e l'altra a coprirsi gli occhi, guardò lo strano uomo in sella. «Stai andando al cantiere della città? Se stai tornando da questa parte, potresti chiedere se c'è una lettera all'ufficio postale per me?» Un uomo con occhi stretti, in palpebre rugose, una cicatrice su una guancia coriacea, due pistole sulle cosce, un ragazzo franco che sorride con un lampo di denti bianco, un meticcio dagli occhi neri, a testa nuda, che cavalcava un pony indiano a dorso nudo. Tutti e tre dicevano: «Sì, signora, ne sarò felice», ma nessuno tornò. Caroline era sicura che ci fosse una lettera all'ufficio postale, se non fosse successo nulla a Charles. Il signor Svensson fu gentile. Il viaggio fino all'ufficio postale e ritorno era di 2 giorni per i buoi o per un uomo a piedi, ma il signor Svensson si offrì di andare. Partendo al crepuscolo e camminando tutta la notte, avrebbe potuto raggiungere l'ombra del sito della città prima del caldo del giorno successivo. Caroline si impegnò ad aspettare solo 2 notti e 2 giorni in più, poi avrebbe saputo. Quel pomeriggio stesso sentì gli zoccoli di un cavallo sulla capanna, sentì un richiamo. L'uomo sfregiato sedeva sul suo cavallo accanto al camino. Aveva portato una lettera. In seguito Caroline sperò di averlo ringraziato adeguatamente. Si ricordò in seguito che lui aveva fatto una ruota a cavallo e si era allontanato al galoppo verso sud-est. Doveva essere arrivato a chilometri di distanza dalla sua strada. La lettera proveniva dall'Iowa. «Cara moglie, prendo la penna in mano per farti sapere che sto bene e spero che anche tu stia bene. Come state tu e il piccolo? Ve la cavate? Ho un lavoro presso la fabbrica di mangimi di Roslin, $30 al mese. Fammi sapere come stai. Roslin mi tratta bene, tutto lana è largo 1 metro. Scrivimi a questo indirizzo e fammi sapere come ti trovi. Sarò a casa in ottobre. Spero che tutto vada bene lì. Fatemi sapere. Bene, quindi, per il momento, niente di più. Il vostro amorevole marito e padre.» Caroline stropicciò tutto il foglio a furia di leggerlo, molto tempo dopo che le parole si fossero ripetute per lei. Alleviavano un po' la tensione dell'attesa di ottobre. «Cara moglie, il tuo amorevole marito, baci per te e il piccolo.» Il signor Svensson andò a piedi in città per spedire la sua risposta. Era stato così gentile che Caroline sentiva di non poterlo mai ripagare. Decise di lasciare che lui tagliasse il fieno per lei, in base alle quote. Avrebbe potuto tagliarlo lei stessa, un po' alla volta, riposando durante la parte calda del giorno, ma il signor Svensson aveva bisogno del fieno per i suoi buoi e Charles e lei ne avrebbero avuto abbastanza, con le due cataste rimaste dall'anno scorso e metà del piccolo raccolto nuovo. Per una settimana il signor Svensson tagliò, rastrellò e accatastò il fieno. La signora Svensson veniva con lui ogni mattina, portando sempre una parte del pranzo, e tutti e tre mangiavano insieme a mezzogiorno nella capanna ombreggiata degli Ingalls. Quella settimana sarebbe stato un piacere da ricordare se non fosse stato per la cupezza del signor Svensson. Il fieno, con alcune delle sue rape, avrebbe fatto svernare i buoi, ma lui continuava a scuotere la testa e a borbottare. All'inizio Caroline pensava che fosse un povero di spirito, ma quando attaccò l'intero paese, l'Occidente, si arrabbiò. «Tatam country», ha detto, «no tam gut». «Il paese è a posto, signor Svensson», disse Caroline. Improvvisamente sentì che era uno straniero. Nessun americano avrebbe parlato così. Disse bruscamente: «Nessun paese vi darà da mangiare con un cucchiaio». Il signor Svensson sollevò il grosso pugno e indicò con il coltello il panorama oltre la porta. La prateria era persa nel calore, non c'era orizzonte, l'aria ondulata si riversava verso l'alto da tutta la terra ondeggiante, i diavoli di polvere turbinavano, correvano, saltavano, le distanze vacillavano e l'occhio non poteva riposare. «Questo paese non dà da mangiare a nessuno», disse amaramente il signor Svensson. «È un diavolo questo paese!» Caroline rimase in silenzio. Per educazione non poteva dire: «Sono gli uomini che fanno un paese. Qual è il tuo problema?» Dopo un attimo Disse dolcemente: fa caldo perché non ci sono alberi, ma dove ci sono alberi bisogna tagliarli e bruciarli, scavare i ceppi e far germogliare i campi. Bisogna sempre lottare contro i boschi. Qui in Occidente pianteremo gli alberi che vogliamo. Sarà più fresco quando gli alberi saranno cresciuti e tutta la terra sarà coltivata. È una buona terra. Pensava Charles che sarebbe tornato a casa in ottobre. Non avevano perso la richiesta dell'albero. Se tutto fosse andato bene, avrebbero piantato gli alberelli in primavera. A settembre, la calura estiva era sparita. La prateria si estendeva di nuovo solida fino all'orlo del cielo. In alto, le prime lunghe file di uccelli selvatici volavano verso sud. Caroline contava ormai le settimane. Solo 8 settimane o 7 la separavano da Charles. Una mattina il signor Svensson scese dal sentiero che portava alla pieroga e si affacciò alla porta. Allargò le sue mani callose e le lasciò cadere a terra. Vai! Andare? Caroline chiese. Ma lei lo sapeva. Gli Svensson si stavano arrendendo, stavano andando a est. Il signor Svensson faticava a trovare le parole. Gli vennero le lacrime agli occhi, come erano venute quando aveva detto a Caroline che sua moglie era sola. L'ape piccola. L'ape piccola e l'ape grande sono morte, morti, tutti morti. Le sue api stavano uccidendo le loro covate. Pungono a morte le giovani api perché non possono nutrirle durante l'inverno. Le cavallette avevano ucciso tutte le piante, le api non trovavano fiori da cui ricavare il miele. Le lacrime per le piccole api uccise scendevano sulla barba incolta del signor Svensson. Con passione disse che non sarebbe rimasto in un paese in cui non poteva vivere nemmeno un'ape. Vork, vork, sempre vork, non si mangia, non si mangia, io vai. Caroline si era un po' spaventata quando il signor Svensson era andato ad abbeverare i buoi al pozzo. Non sapeva quanto gli Svensson fossero diventati parte della sua vita. La loro partenza la fece sentire insicura. Per tutta l'estate aveva avuto la sensazione che il paese si stesse sistemando rapidamente, quando i vicini erano distanti solo mezzo miglio l'uno dall'altro. Le altre baracche di zolle erano state abbandonate dall'arrivo delle cavallette, ma lei non aveva mai sentito il loro vuoto prima. Lasciò il bucato nella vasca, vestì frettolosamente il piccolo Charles John, pensando a come Charles avrebbe sorriso nel vedere l'onda di capelli sulla sua testa e il dente trionfante nel suo sorriso. Si mise la cuffietta da sole e attraversò la prateria per andare dalla signora Svensson. La signora Svensson parlava allegramente dell'est. Aveva un fratello in Minnesota. Sarebbero andati da lui. Quell'inverno sarebbero stati in una casa affollata in un paese di strade, campi recintati e vicini. E ci sarebbe stata legna per il fuoco e cenere per fare il sapone. E ci sarebbero stati latte, panna e burro. E ci sarebbe stata gente che andava e veniva. E pettegolezzi, scherzi, campanelli che risuonavano nei boschi mentre si andava a ballare. La signora Svensson parlava di tutte queste cose ed era molto impegnata a prepararsi per partire. Solo una volta, senza volerlo, i suoi occhi confessarono la verità e Caroline distolse rapidamente gli occhi. La signora Svensson sapeva che suo marito si stava arrendendo, che sarebbe stato solo un mercenario in Oriente. Ma sorrise, scosse la testa con le sue trecce gialle e disse: Welcome back! Noi torniamo! La terra è abbondante, vero? Sì, ma Charles avrebbe posseduto la sua terra in altri 4 anni. Charles non avrebbe mai rinunciato, senza alcuna ragione in più rispetto al signor Svensson. Il signor Svensson non stava rinunciando solo a questo quarto di terra, ma a un anno della sua vita, a un anno di lavoro e di speranza. Caroline dubitava che il signor Svensson sarebbe mai stato qualcosa di più di un semplice impiegato. Iniziò a trasportare le patate, le rape e la sua parte di fieno del pascolo fino al sito della città e a scambiarle con i rifornimenti di cui avrebbero avuto bisogno durante il viaggio. Persino il suo aratro fu scambiato con polvere e pallini, legno per gli archi dei carri e grano per nutrire i buoi. Un giorno arrancava per 10 miglia accanto ai buoi e il giorno dopo tornava a cavallo. La signora Svensson rammendava il tettuccio di tela del carro e cuoceva il chiodo per il viaggio. Il signor Svensson partì per il suo ultimo viaggio in città. Al suo ritorno sarebbero stati tutti pronti a partire, non appena fosse arrivato Charles. La sera successiva, al tramonto, Caroline lo sentì chiamare. Corse su per il sentiero che portava alla prateria. Lui stava slacciando i buoi dal carro, come al solito. A causa dell'insidia nella palude lo attraversò, poi ricondusse i buoi al pozzo per bere. Si fermò e, frugando nella camicetta, tirò fuori una lettera. Il suo viso largo si illuminò di piacere per la gioia di Caroline. La lettera diceva quando sarebbe arrivato Charles. Con rapidità e attenzione tagliò la busta con una forcina ed estrasse il foglio piegato. Vi si trovavano due banconote flosce. Il suo cuore si fermò e riprese a battere con un sussulto che fece tremare il foglio. Riuscì a malapena a tenerlo fermo per leggere le parole che vi erano scritte. «Cara moglie, prendo la penna in mano per dirti di non preoccuparti. Ho avuto un incidente, ma sto bene. Caroline, non posso tornare a casa in ottobre. Ho la gamba rotta in due punti e la caviglia ferita, ma il dottore dice che sto guarendo velocemente. Dice che sono in forma. Non sarò zoppo. Non resterò zoppo. Ho ricevuto la tua cara lettera e sono felice che tu stia bene e che il piccolo sia grasso e impertinente. Caroline, è meglio che ti organizzi per stare con gli Svensson. Non so quando potrò viaggiare e l'inverno potrebbe essere brutto. La selvaggina scarseggerà, i lupi e i fuorilegge torneranno a vivere in un paese ristabilito. Resta con gli Svensson e lui si prenderà cura di te. Fagli costruire una baracca che si unisca alla sua. Ti mando i soldi che posso per le provviste. Tu e il bambino sarete al sicuro con Svensson e io verrò appena possibile. Non preoccuparti per me. Roslin è l'uomo più bianco che conosca. Stavamo spostando il suo mangimificio e lui non è riuscito a reggere il peso e mi è caduto addosso. Non è stata colpa sua, ma lui sostiene di sì. Non mi fa pagare un centesimo per il vitto mentre sono a letto e dice anche che pagherà il dottore. Per come la mette lui, mi sembra giusto lasciarglielo fare e lui è così ricco che non ne sentirà la mancanza. Quindi non preoccuparti, io sto bene. Trasferisciti dagli Svensson e sistemati prima del freddo. Caroline, cara moglie, fai del tuo meglio. Cerca di non sentire la mia mancanza come io sento la tua. Non ti lascerò mai più finché vivremo. Scrivimi. Il tuo amorevole marito. Il signor Svensson arrivò dalla palude guidando i buoi. Guardò Caroline in attesa. Tutte le patate e il fieno erano finiti e lui e sua moglie erano pronti a partire. Aspettavano solo l'arrivo di Charles. Ogni giorno era prezioso perché dovevano iniziare presto il lungo viaggio per raggiungere il Minnesota settentrionale prima che cadesse la neve. L'aspettativa soddisfatta del signor Svensson cambiò in sgomento quando vide il volto di Caroline. Ora non tremava più. Le sue dita, fredde e ferme, piegavano la lettera. Charles era vivo, grazie a Dio. La sua vita era stata risparmiata. Non si era mai resa conto prima che Charles poteva morire, che avrebbero potuto non rivederlo mai più. «Non verrà», disse lei. «È stato ferito». Neanche quelle parole riuscirono a penetrare il suo torpore. Solo una piccola parte di lei era viva ed era intorpidita e ferma come una roccia. Doveva decidere cosa fare. I suoi occhi guardavano le banconote, con attenzione seguivano le linee dell'incisione. Due banconote da $10. 2 volte 10 fa 20. Doveva decidere cosa fare. Tutta la responsabilità ora era sua. Un angolo di una banconota era girato verso il basso. Lo raddrizzò e lisciò con cura le pieghe. Senza alcuno sforzo di ragionamento o di scelta, disse: «Devo prendere il bambino e andare al cantiere della città». 3. In una piccola baracca di zolle su una richiesta di risarcimento. Caroline ricordava la giornata al cantiere della città come se fosse accaduta a qualcun altro. Anche in quel momento tutto aveva un'aria di realtà, forse perché era così stanca. Era pronta ad andare quando arrivarono gli Svensson. C'era molto da fare. Sembrava che quella notte non avesse bisogno di dormire. Era come se dormisse mentre lavorava. Per tutto il tempo sapeva che Chas era ferito, soffriva e che non sarebbe tornato presto da lei. Sapeva che era rimasta sola a prendersi cura del bambino e di se stessa in un mondo capace di qualsiasi mostruosa e imprevedibile crudeltà, ma lo shock l'aveva resa insensibile, tanto che non sentiva molto. Lavò i vestiti e la biancheria del letto, le appese ad asciugare alla luce delle stelle. Sistemò le provviste rimaste e le impacchettò ordinatamente per partire. Pulì la stufa e la strofinò con il cherosene per evitare che arrugginisse. L'ultima goccia d'olio della lanterna fu versata nella tanica di cherosene e il beccuccio della tanica fu chiuso con una patata. I suoi vestiti e quelli del bambino furono raccolti in due fagotti e in una scatola mise la Bibbia, le poesie di Tennyson, le sue cose per cucire e i suoi ferri da maglia, la seta marrone e la scatola di conchiglie che Charles le aveva regalato. La pistola e la sua scatola di cartucce entrarono ordinatamente in un angolo. Svuotò il fieno dalla coperta, lo scosse, lo spazzolò e lo piegò ordinatamente sulla branda spoglia. Le trapunte e le coperte le accatastò per portarle con sé. Aveva un sapore di metallo in bocca e le palpebre le sembravano sabbiose, ma non era stanca. Quando lo vestì, il bimbo non stava in piedi dal sonno e quando arrivarono gli Svensson era tutto pronto. Lei doveva solo mettersi la cuffia e chiudere la porta con il lucchetto. Il signor Svensson portò la scatola e i fagotti su per il sentiero. Lei chiuse il lucchetto e lo seguì con il bambino. La prateria era buia. Il carro coperto e i buoi si stagliavano contro l'oscurità più pallida, si agitava una brezza gelida e Caroline non si sentiva né addormentata né sveglia mentre il carro da corsa la portava via dalla comoda piroga, dal ruscello, dagli alberi di prugne, dai pagliai vicino al fienile e alle zolle, dal pozzo nella palude. L'alba si affacciò sul paese vuoto. E assonnate, Caroline e la signora Svensson scesero dal carro e si misero in cammino. Andarono così avanti che si fermarono ad aspettare i buoi più lenti. Caroline si sedette a terra, allattò il bambino. Il sole era più alto ora. La terra aveva perso i suoi contorni, piatta e senza ombre. Si estendeva per sempre nelle distanze. Eppure era una semplice piattaforma nell'infinita ariosità dello spazio. Quando i buoi portarono sul carro, Caroline vi depose il bambino. Dormì sul mucchio di lenzuola, dondolandosi un po' al movimento delle ruote. Le api imprigionate ronzavano nelle arnie. Una nebbia di polvere si alzò intorno al carro, ma Caroline vi rimase vicino in modo da sentire il bambino quando si fosse svegliato. Parte del tempo la signora Svensson lo portava in braccio. Una volta il signor Svensson suggerì di fare un po' di strada, ma Caroline scosse la testa. Il carico era pesante e per molto tempo i buoi non avevano mangiato altro che fieno. Si fermarono spesso per far riposare i buoi. A mezzogiorno accesero un piccolo fuoco di truccioli di bufalo e Caroline fece bollire il tè. All'ombra del carro lo bevvero e mangiarono patate lesse, fredde con sale, pane e melassa e buone rape crude. Per quasi tutto il pomeriggio riuscirono a vedere la città davanti a loro. Il terrapieno della ferrovia e gli edifici si staccavano dall'orizzonte e si avvicinavano a ogni chilometro. Di tanto in tanto uno scroscio di polvere seguiva un uomo a cavallo verso est o verso ovest. Una squadra di cavalli e un calesse si muovevano come formiche nella prateria. Due uomini uscirono a cavallo dal nord-ovest, il paese dei fuorilegge. E per un attimo si affiancarono al carro, i loro occhi scrutarono acutamente sia il carro che i buoi, parlarono a Svensson e se ne andarono con uno sferragliamento e un ritmo decrescente di zoccoli. Nel crepuscolo un barlume prese forma davanti a loro di una finestra illuminata. Gli edifici si stagliavano alti e squadrati contro il cielo, si sentirono delle voci, una porta sbatté. Caroline si preparò ad avvicinarsi a questo luogo popoloso. Il carro passò accanto a un edificio e la strada uscì improvvisamente dal crepuscolo. Faceva paura. Una mezza dozzina di vetrate illuminavano alti portici dove gruppi di uomini stavano parlando. Uno scoppio di grida e risate proveniva dal saloon. Poi la porta si aprì improvvisamente con molto rumore e due uomini uscirono e montarono a cavallo, schiamazzando. Due ragazzini uscirono dal buio e rimasero a guardare mentre il signor Svensson staccava i buoi e gli dava da mangiare e la signora Svensson preparava il fuoco da campo. Caroline affettò il resto delle patate bollite in una padella. Il bambino, affamato e stanco, cominciò a piagnucolare e lei si affrettò ad allattarlo. «È tuo marito?» le chiese uno dei ragazzi. «No», Caroline fece un cenno alla signora Svensson, «è suo». «È il loro bambino?» «No, è il mio bambino», si raddrizzò e sorrise. «E allora dov'è tuo marito?» La domanda innocente trafisse il suo torpore. Provò un dolore peggiore dell'agonia fisica, un'angoscia che gridava per Charles. Urla, grida, un'angoscia insopportabile di non essere completa, di essere stata strappata alla sua metà, di essere stata abbandonata. Beh, immagino che tu abbia un marito, vero? Disse il bambino. Caroline sussultò, si voltò verso il bambino cercando di parlare. Lui indietreggiò e le parole le si strapparono con forza in gola. Sì, ho un marito, è all'est. I ragazzi rimasero in silenzio e dopo un attimo, in silenzio, se ne andarono.